Lo scorso 8 aprile è uscito il nuovo singolo di Massimo Zamboni, Canto degli Sciagurati, che anticipa un album che uscirà in autunno, e questo singolo è accompagnato anche da un video molto suggestivo. Noi siamo al telefono con Massimo, che saluto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, questa è la prima chiacchierata che faccio sul video del singolo, quindi un'esclusiva. La primogenitura. Il Canto degli Sciagurati, gli sciagurati chi sono? Ma oddio, basta guardare fuori dalla finestra e ce ne sono centinaia e di migliaia. Ho cercato di raccontare una storia eterna, quella della eterna necessità di prendere in mano la propria vita, e dall'altra parte quella di scontrarsi con una gendarmeria fredda, gelida, glaciale, che esegue come in un qualsiasi lavoro d'ufficio quello che è deputata a fare, cioè eliminare questa fonte di disturbo. Quindi il video, io fatico poi a considerarlo un singolo e un video musicale, in realtà è un piccolo atto teatrale, un piccolo dramma teatrale che si sviluppa in 4-5 minuti, ha sicuramente un aspetto musicale ovviamente, però è proprio un piccolo film, credo. Sì, assolutamente, assolutamente. La regia del video è di Pier Giorgio Pasotti ed è ambientata, come dire, in uno scenario tra la campagna ma anche i residui industriali. Sì, è una zona di cave di argilla sull'Appennino di Reggio Emilia, nel comune di Baiso, dove sono residuati tutti questi hangar di lamiera, questi macchinari distrutti in mezzo a una natura che sta cercando di reimpossessarsi del luogo, ma è molto difficile perché sull'argilla non cresce nulla, e quindi era il luogo perfetto per questo scontro così, così violento da una parte, anche così rassegnato dall'altra. Ti volevo chiedere se appunto nel Canto degli Sciagurati, nella composizione appunto del testo e delle musiche, ma soprattutto ovviamente del testo, tu dicevi prima è una storia che si ripete sempre, quella tra repressione e un invito anche all'insurrezione, all'insorgenza, e ti ha ispirato questo periodo oppure no, o è più universale? No, direi che più la storia è eterna in qualche modo. Se dovesse avere dei rimandi immediati, mi vengono in mente i fasci siciliani di fine 800, possiamo passare attraverso tutta la storia italiana del 900, alla repressione dei moti nel sud, ai moti di Reggio Emilia negli anni 60, ma anche in maniera figurata al continuo dispossessamento della nostra qualifica di cittadini, avvenuto giorno per giorno. Non c'è bisogno di azioni eclatanti come quelle del film, del video. In realtà c'è un logorio, è un erodere continuamente quello che è stato conquistato, che è impressionante ed è un meccanismo che si ripete nei secoli. La libertà non è mai regalata, è presidiata giorno per giorno. Ma a tuo avviso oggi abbiamo la stessa coscienza magari che avevamo in passato? No, decisamente no, decisamente no, perché c'erano degli avvenimenti grandi molto più freschi attorno a noi, c'erano i residui della seconda guerra, c'erano le lotte operaie, le lotte studentesche, una serie di tematiche di liberazione individuale fortissime che saltavano fuori e che adesso sono in qualche modo naufragate tra il web, il lavoro incessante che o non c'è mai e ti logora, o ce n'è troppo e ti logora altrettante, quindi manca proprio il tempo mentale e intellettuale di poter pensare al proprio destino singolo e di collettività. Come dicevo prima, Canto degli Sciagurati anticipa quello che sarà un album che uscirà nell'autunno prossimo, che si chiama La mia patria attuale. Ci stai lavorando o è già ultimato? Siamo in fase avanzata, diciamo che insomma entro la fine di aprile, primi di maggio terminiamo il lavoro, e così rimangono anche il tempo per le limature, i ripensamenti. È un album molto più cantautorale, personale del solito probabilmente. Io ho pensato di abbandonare il cordone ombelicale del cavo jack e la chitarra per dedicarmi molto di più alla voce, anche se ho composto le parti di chitarra, le ho chiesto ad altri di suonarle, perché altrimenti non se ne esce mai neanche da lì, ci vuole un po' di azzardo anche in questo, quindi ho cercato di calcare molto di più la figura del cantante, dello scrittore, del compositore, autore. Una direzione cantautorale dove però poi faremo ascoltare anche il pezzo, non rinneghi le origini insomma della tua musica? No, infatti poi non mi fiderei così tanto di quello che sto dicendo. Bene, allora io intanto ti ringrazio e poi appunto adesso faremo ascoltare all'ascoltatrice e ascoltatori Canto degli Sciagurati, e in attesa di vedere uscire appunto La mia patria attuale. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao, ciao, buona giornata.